Buongiorno, cara Maria. Ti sei svegliata come ogni mattina, hai spalancato la bocca e poi via. Un buon profumo e sei già pronta e carina. Maledizione, dove ho messo il diario? L'avrò appoggiato sul trumò della sala. Se non lo trovo non arrivo in orario. Ah, trovato, e allora giù per la scala. Dileggerò questa terza giornata con i colori dell'universo. Così stasera quando torno stremata potrò ben dire di non aver perso. Yeah! Forza, passo veloce, non ti fermare. Consuma i tuoi giorni e non ti voltare. La scuola ti aspetta, si è aperta la porta. Ma tu vai di fretta e non ti sei accorta. Intanto sorridi, vorresti volare. Ti guardi un po' attorno, vorresti cantare. E invece ti aspetta la professoressa, che a volte sorride e a volte ti stressa. Yeah! Anche se non lo credi, amore, sai già che si propagherà come la goccia di sudore che sta cadendo sul sofà. E scava, scava nel tuo cuore e chissà dove si fermerà. Si asciugherà con gran stupore, nessuna traccia lascerà. Ti guardi alle spalle, che cosa hai scordato? Forse una frase, magari un'amica che un giorno ti disse io faccio fatica. Ma non ci pensare, ognuna ha una rotta. Nessuna può dire di essere perfetta. E i tuoi talenti, i tuoi calendari, non venderli mai per 30 denari. E danzerai sopra le stelle, sempre più splendida sarai. Saranno tutte caramelle che non si scioglieranno mai. Non dovrai mai comprare amore, perché la forza che c'è in te viene da una situazione, ma dal tuo cuore sempre.